Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Le mansioni a cui sono stato adibito all'Eternit in 9 anni di lavoro erano quelle ritenute in assoluto le più pericolose. Formalmente ero un addetto al facchinaggio, ma spesso mi è successo di essere spostato in altri reparti dello stabilimento, soprattutto per punizione. Dal 70, l'anno in cui sono stato assunto, al 79, quando è scattata la cassa integrazione, che ha preceduto di 7 anni la chiusura, sono stato utilizzato per lo più in un sotterraneo dove giungevano sacchi di juta pieni d'amianto. Questi sacchi, che potevano pesare fino a 60-70 kg, li dovevamo scaricare e poi aprire manualmente, con un coltello, senza nessuna protezione. Una volta aperti i sacchi, il nostro compito consisteva nel riempire dei silos, da cui enormi tubi pompavano il materiale, ormai allo stato libero, ai reparti del piano superiore, dove veniva macinato dentro delle molazze. Noi facchini facevamo i 3 turni, dalle 4 alle 12, dalle 12 alle 20 e dalle 20 alle 4, e spesso, a causa dell'utilizzo continuo dei macchinari, ci toccava andare durante la notte, armati di tondini lunghi circa 4 metri, a spurgare i tubi che si erano ostruiti. Un'operazione che rendeva ancor più pericoloso il nostro lavoro, perché qui l'amianto veniva smosso, grattato via e per proteggerci non potevamo contare che su leggerissime mascherine di carta. Noi ai capi glielo dicevamo: non basta quello che ci fate maneggiare nei sacchi? Quest'ulteriore incombenza ci sembrava davvero troppo, un rischio aggiuntivo che avremmo voluto evitare. Ma dall'altra parte non avevamo interlocutori disposti ad ascoltarci. Che volete che sia, ci rispondevano, pensate piuttosto a guadagnarvi il vostro stipendio. Purtroppo avevamo ragione noi, e oggi dei 30 compagni di lavoro che componevano la mia squadra siamo rimasti vivi solamente in 3. Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo a Lucciole nelle tenebre, il programma del Presidio Universitario di Libera. Ciao a Jacopo. Ciao. Io sono Tania. Saremo noi a condurre le puntate di questo mese. Salutiamo anche Flavia, il tecnico di oggi. Speriamo che per le prossime puntate possa anche raggiungerci Margherita, ma ancora non sappiamo. Cominciamo questo 2014, come avrete sentito, con un ciclo di 3 puntate dedicato alla questione amianto e alla vicenda Eternit di Casale Monferrato. Casale è una cittadina del Piemonte, in provincia di Alessandria, che ha avuto e continua ad avere un posto di primo piano in questa questione. Infatti, per gran parte del Novecento lì c'è stata una fabbrica di Eternit, quindi è stata una delle prime città, una delle maggiori città a produrre questo materiale, ma è anche stata una delle prime città a denunciare la nocività dell'amianto. Dopo un difficile percorso di autoconsapevolezza, che è quello di cui parleremo in questa puntata, infatti dobbiamo considerare che sono stati i lavoratori stessi della fabbrica a portare la fabbrica stessa alla chiusura, e poi Casale rappresenta anche ancora oggi la città che ce l'ha fatta, nel senso che è simbolica, è un segnale per moltissime altre realtà che nel mondo soltanto adesso si avvicinano alla consapevolezza di che cosa significhi lavorare l'amianto, di quanto sia pericoloso. Avete sentito all'inizio della puntata una testimonianza, l'inizio della testimonianza che continueremo a leggere dopo, è di una persona piuttosto nota a Casale, Pietro Condello, un lavoratore profondamente casalese, perché è evidente che si porti addosso nelle ossa quel lavoro nella fabbrica dell'Eternit, ma che è anche ancora tutt'oggi decisamente siciliano dall'accento. La testimonianza l'abbiamo letta perché dà una prima idea della realtà della fabbrica. Però cerchiamo di capire meglio come arriva a esserci l'Eternit a Casale Monferrato. Casale è una città che fin dall'Ottocento è zona fertile per l'industria di cemento. Lì ci sono le miniere di marna che sono sfruttate già da tempo, e ricavare cemento dalla marna è un processo semplicissimo e vantaggioso a livello economico. Ad un certo punto, agli inizi del Novecento, questo vantaggio economico non c'è più, perché bisognerebbe scavare ancora le miniere. Conviene di più la marna a cielo aperto, quindi gli imprenditori per la maggior parte si spostano. Moltissime delle fabbriche, ed erano davvero tante, che erano nate a Casale in quegli anni, chiudono, smettono di lavorare o limitano la produzione. C'è soltanto una fabbrica che continua a resistere, che anzi converte tutta la sua produzione ai manufatti di cemento amianto. È proprio questa fabbrica, la più grande di tutte, che, di cui è proprietario l'ingegnere Adolfo Mazza, che per primo porta a Casale, nella sua città, questo cemento amianto. Ma prima di addentrarci più a fondo nella questione, ci ascoltiamo una canzone di Adriano Celentano, Anna Parte. Anna parte al mattino dal primo binario al solito orario. Anna dice buongiorno al padrone per educazione. E mentre lavora da buona impiegata non fiatta. Anna rischia di brutto la noia che prende alla gola. Ma Anna non pensa al lavoro, infatti nulla c'è da pensare. Ma niente di nuovo da fare, ma niente che vale. Anna torna la sera alla solita ora. Lei fa tutto secondo il modello conforme, poi dorme. Ma non è sempre dolce dormire, è un modo di dire. C'è il problema di un sogno che non si decide a morire. La vita che cambia sapore, perché così si muore. Anna non si accontenta del sabato sera di un salto in balera. Anna cerca la prova del nove però non sa dove. O forse l'amore, la via d'uscita, la vita. Queste cose le ha lette nei libri di grande successo, che sente ripetere spesso da quelli che ti leggono la mano, che solo l'amore è sicuro. Chissà poi se è vero. Anna mette la sveglia e riparte da zero. Altalena di andata e ritorno da un secolo intero. Dal primo binario e senza scordare l'orario. Come replica di uno spettacolo d'oratorio. Anna cambia le scarpe e il vestito, fa gesti di rito. Anna all'infinito. E l'amore è già una mania, un'altra bugia. E allora l'amore è la via d'uscita, l'amore, la vita. E Anna va su mentre il blu si avvicina, dove l'aria è più pura e la storia cammina. L'Eternit è un materiale edile dai bassissimi costi di produzione e dai mille impieghi. Infatti è ignifugo, isolante, leggero e consente ai costruttori di risparmiare molto tempo e molto denaro. Viene brevettato dall'austriaco Ludwig Hatschek nel 1901 e le sue incredibili proprietà derivano proprio dalla piccolissima percentuale di amianto presente nell'impasto del cemento. Cioè dall'8 al 12%. Il brevetto viene venduto nel resto di Europa. Si diffonde così la produzione del materiale sempre sotto lo stesso marchio e a cambiare soltanto l'imprenditore. Dall'Italia compra il brevetto appunto l'ingegner Mazza, che nel 1907 fonda lo stabilimento casalese. 94.000 metri quadrati di estensione, di cui 50.000 scoperti. L'Eternit di Casale Monferrato rappresenta il più grande stabilimento di manufatti in amianto di Europa. Dal 1907 al 1986 le persone impiegate sono circa 5.000. Negli anni 50 1.000, salite a circa 2.000 nel 65 e stabilizzate intorno a 1.000 sino agli anni 80. Negli anni successivi il numero di addetti è diminuito. progressivamente fino alla chiusura totale dello stabilimento avvenuta nel giugno del 1986. In questi 80 anni la Eternit divenne popolarissima. Nel 1915 vengono messe in commercio le famose fioriere. Nel 1933 fanno la loro comparsa le lastre ondulate, in seguito usate spesso per tetti e capannoni. Sino alla fine degli anni 70, i tubi in fibrocemento rappresenteranno lo standard nella costruzione degli acquedotti. Venne impiegato in scuole, ospedali, palestre, cinema, oltre che in tutti i settori industriali. Esattamente, divenne popolarissimo, ma soprattutto a Casale viene davvero utilizzato dappertutto, per qualunque cosa. Le recinzioni dei pollai vengono fatte d'amianto, questo perché i lavoratori, perché amassero in qualche modo sempre di più la loro fabbrica, i proprietari cosa facevano? Creavano dei meccanismi psicologici, per cui per esempio regalavano le latte d'olio a Natale, oppure ti regalavano i materiali di scarto, appunto quelli che poi la gente si portava a casa e usava per costruire il pollaio, oppure molto pericoloso, molto dannoso e ancora molto diffuso a Casale, il polverino, quindi proprio lo scarto, che però ha le ottime proprietà del materiale, se non fosse cancerogeno, ed è utilizzato spessissimo per isolare i cortili oppure nei sottotetti, sempre come isolante. Le precauzioni erano nulle praticamente, c'erano delle mascherine che erano dei foglietti di carta sottilissimi, non servivano a nulla. Ci sono voluti anni di lotte sindacali per ottenere delle mascherine un po' serie che comunque non servono a nulla, ma questo si è scoperto sempre dopo, perché scoprire come lavora e quanto sia subdola questa fibra microscopica, insomma, non è stato facile nemmeno a livello scientifico. Ma invece di continuare a parlare io, insomma, vi leggo ancora un pezzo della testimonianza di Pietro Condello. Gli ultimi 7 anni all'Eternit sono stati di cassa integrazione. Significa che da quando mi è stata diagnosticata l'asbestosi, ho lavorato nei reparti a contatto con l'amianto per altri 6 anni. Tutti mi chiedono perché non mi sono cercata un'altra occupazione quando ero ancora in tempo. E dove andavo? Avevo una moglie e 2 figlie. Se avessi potuto sarei tornato in fonderia, ma nel frattempo quella era stata chiusa. E poi chi poteva immaginare che rimanendo mettevamo addirittura a repentaglio la nostra vita? Di tumori non sapevamo ancora niente. Il grosso dei decessi sarebbe arrivato soltanto negli anni 80. Così continuai a svolgere le mie mansioni al reparto Facchini, fatta eccezione per alcuni trasferimenti che di volta in volta mi venivano imposti, con l'intento, nemmeno tanto mascherato, di farmi pagare il mio carattere un po' ribelle e l'attività nel consiglio di fabbrica. Io, per punizione, sono stato mandato al famigerato Cremlino, un vero e proprio reparto confino dove la direzione spostava i sindacalisti della commissione interna, per lo più attivisti della CGIL, e quelli che in generale creavano più problemi. Quando ogni tanto mi spedivano lì, per 2 o 3 giorni, mi dovevo occupare dei vasconi in cui i tubi venivano tenuti per 40 giorni nell'acqua a pressione, per verificarne la tenuta, la buona qualità. Un lavoro pericoloso, in particolare di notte, quando la stanchezza era sempre in agguato e c'era il rischio di cadere nei contenitori da un'altezza di circa 8 metri. Era un ulteriore motivo di disagio e a poco serviva a protestare, perché tanto i nostri superiori avevano sempre la meglio. Dopo l'Eternit ho lavorato all'IBL, una fabbrica di legnami, in cui sono rimasto fino al 2001. Mi servivano altri 8 anni per andare in pensione e quest'ultimo impiego mi ha permesso di assicurarmi una vecchiaia più serena. Con questo non voglio dire che le mie preoccupazioni siano finite, anzi, negli ultimi tempi sono addirittura aumentate, da quando mia moglie e le mie 2 figlie hanno cominciato ad avere dei problemi di respirazione e ad accusare tutta una serie di sintomi riconducibili, almeno una prima e superficiale osservazione, all'asbestosi. Le visite che hanno fatto fino a questo momento escludono per loro la presenza di serie complicazioni ai polmoni, ma io continuo a essere lo stesso in ansia. Per tutti gli anni in cui sono stato all'Eternit, ho portato a casa la tuta da lavoro per farla lavare. Un'incombenza che ha riguardato in particolare mia moglie, ma in talune occasioni anche la mia figlia maggiore. Oggi non riesco a togliermi dalla testa che a causa del contatto diretto con quell'indumento possano prendersi un giorno anche loro la mia malattia. È un pensiero che mi fa tremare. drank wine, they had left on my table. I knew the morning was to fall. I smoked my last pack of foreign cigarettes. I'll stay only to defy that I was dark as the land is cold. It's frozen right to the bone. A partire dagli anni 70 diventa sempre più evidente la connessione tra il lavoro e il tumore, anche perché cominciano effettivamente a morire cittadini di Casale che in fabbrica non ci avevano mai messo piede. La denuncia all'interno del consiglio di fabbrica è portata avanti da Nicola Pondrano, che è diventato portavoce del consiglio di fabbrica nel 75, appena 2 mesi dopo l'assunzione, perché è una persona che ho incontrato qualche mese fa e ancora adesso è piuttosto arrabbiato sull'argomento, è sempre stato molto attivo. Si comincia quindi a pretendere la rimozione delle situazioni più pericolose, le mascherine di cui parlavo prima. Soprattutto Pondrano si batte molto perché i laboratori Eternit avevano questa indennità alla polvere, cioè una somma che veniva aggiunta allo stipendio, perché era evidente che respirare tutta quella polvere tanto bene non poteva fare, e per tenere quieti i lavoratori quindi si faceva così: si aumentava lo stipendio, si aumentava l'indennità alla polvere. E Pondrano si è battuto molto perché smettessero di dare questi soldi e perché prendessero davvero delle precauzioni. Mano a mano si capisce sempre meglio cosa succede, che cosa significa lavorare con l'amianto. Importante anche la figura di Bruno Pesce, che guida il sindacato a Casale dal 79. Insomma, viene coinvolta anche la stampa locale e la battaglia quindi per il diritto alla salute diventa incalzante. Ma non si è mai trattato di proteste sterili, né tantomeno si mirava a chiudere la fabbrica, un progetto improponibile in questa fase che nessun sindacato avrebbe mai potuto né voluto portare avanti, ma sempre di un'azione volta al pragmatismo. Tutte le piattaforme rivendicative aziendali contenevano richieste sulla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, richieste di informazione, l'istituzione di libretti individuali di rischio, un registro dei dati biostatistici. A sostegno si possiede un documento importante, lo Statuto dei lavoratori, che vincola i proprietari di fabbrica a riconoscere una serie di diritti fondamentali che, in questi anni, diventano strumento indispensabile per l'acquisizione e la diffusione di consapevolezza. Insomma, Casale comincia a muoversi tutta insieme. È la stampa, insieme al sindacato, insieme ai lavoratori, insieme a tutta la cittadinanza, che si rende conto di che cosa significa avere una fabbrica di Ethernet nella città. La questione della qualità del lavoro, del rispetto per i lavoratori e dell'ambiente smette finalmente di essere secondaria, tanto che diventa possibile portare l'azione sul piano penale, il che significa spostare una denuncia sindacale interna alla fabbrica sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Si arriva finalmente a riconoscere e a dire nero su bianco che la tragedia che si consuma a Casale non riguarda solo un gruppo di operai, ma l'intera città. Solo grazie al lavoro di sensibilizzazione e protesta portata avanti dai sindacalisti negli anni 70, congiunto poi a quello di associazioni e istituzioni, i lavoratori hanno potuto rendersi conto che quelle voci erano dalla loro parte fino in fondo, e proprio per questo non si poteva trascurare la questione ambientale. Infatti ancora oggi a parlare con Enrico Pesce, quello che ricorda con più orgoglio da sindacalista chiaramente è proprio questo fatto. Lui dice: alla fin fine, quando abbiamo chiuso i battenti, la maggior parte della gente stava dalla nostra parte. E questo è stato un passaggio non da poco, perché voglio dire, lavoratori ma anche cittadini che vedono nell'Eternit il primo posto di lavoro, il più sicuro, insomma, che alla fin fine arrivano a capire che è dannoso e che occorre chiuderlo, e portano la fabbrica alla chiusura, denunciano alla fine i proprietari. Insomma, non è stato esattamente un lavoro piccolo, ed è quello che lui ed è qui, insomma, che Pesce nota la differenza, per esempio, col caso attuale dell'Ilva, là dove c'è un sindacato che dice determinate cose, si muove in un senso, ma non ha vicino, non ha intorno davvero il lavoro sia dei lavoratori sia soprattutto di tutta una città. Ed ora benvenuti al nostro buffet. Noi siamo grati a Francesca e a Pietro di averci regalato una sigla del buffet pazzesca, graziosa. Noi però, insomma, l'abbiamo cambiata, e questo buffet in questa puntata è molto breve, molto rapido ma intenso. È un po' poco buffet anche, però insomma è in realtà la lettura dell'agenda di Jacopo. Bene, per rinfrescare la memoria è bene segnalare che è appena iniziato alla Corte d'Appello di Bologna il processo per il primo processo all'Andrangheta sul territorio emiliano. Giovanni Tizian tra le parti offese e Libera, che si è costituita parte civile. Vi invitiamo per questo lunedì 20 gennaio alle 9:30 in via Farini di fronte al Tribunale della Repubblica, dove ci saremo anche noi a manifestare. Quindi vi invitiamo a venire con noi a manifestare sostegno. Vi salutiamo e vi lasciamo con la canzone di Adam Cohen, What Other Guy. Know what you look like in the morning. Your kisses are soft and warm. I can draw you with my eyes closed. I've seen you with nothing on but the radio. I know how many years of French you took. Your favorite movies, your favorite books. I know what really gets you going, glowing. I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? Oh, and oh, and I know what you want by what you're wearing, the kind of night you're preparing. I know what your hands do when you're kissing, number one and number two favorite positions.